un'appassionata di cucina. Cucina nel senso che leggo molti libri di ricette, ma non cucino tanto. E devo dire che... Io ho preso la cucina della mamma. Se no lo vedo, cioè, non potrebbe dire la... Quello che mi stupisce, no? Che mi sono sempre posta la curiosità della... Secondo me la ricetta, la cultura, no? Della, il tramandarti il libretto con la torta dal negus che faceva mia mamma, che mi ricordo che io ero specializzata a leccare il barlotto con il cioccolato. Sono dei gusti, dei sapori, delle cose che... Vabbè, ormai in questo vortice di mondo dove tutto... ha lo stesso gusto, lo stesso odore, ormai te lo sono. Io sono una curiosa di natura e mi piace particolarmente la cucina piemontese, leggerla, perché poi sai, a cucinare è una fatica, è come lavorare la terra, le basi, no? Allora io sono andata a trovare. Stavo curiosando perché dicevo, ma le ricette della Lomellina, cioè, quando sono poche, perché noi siamo terra di conquista, siamo. Conquistate da una parte dal milanese e dall'altra dalla cucina piemontese, che è una gran cucina, no? Cioè, per cui le nostre, poi siamo poveri, io se mi permettete dico anche un po' ignorante, non siamo stati in grado di apprezzare, davvero poi salta fuori la confraternita del salame d'oca, cioè che poi diventano delle cose buone, diventano cose costosissime dei prodotti di nicchia, cioè io con i miei ticket dove lavoro, qualche volta sono andata a comprare il salame d'oca come si dice, a Mortara. Vi garantisco che il patè era brusque, vero? Cioè, e costava meno. Cioè, io non avevo trovato il primo, uscite folli, no? Per cui ci trasformiamo e perdiamo di specificità e andiamo dietro ai deliri delle mode. Quindi delle robe fuori dal mondo, prezzi, oggi si stanno scatapellando a Mortara per il salame d'oca, cioè che poi... No, tra l'altro non c'è un oca in tutta l'Omellina, ciao, cioè questo c'è anche scritto nel libro, io mi sono occupato di queste cose, poi in passato, cioè, credo che le oche che si allevano in Lomellina... No, ce n'è qualcuna, siamo in grado di coprire il 2% della produzione di salame d'oca. Le oche che si allevano in Italia saranno in grado di coprire il 5% della produzione di salame d'oca. Le oche arrivano tutte dall'est europeo, insomma, questo arriva con... Cioè, c'è tanto falso nella tradizione, ecco, questo non è un libro che sostiene la tradizione fasulla, cioè è un libro che queste cose le racconta, le prende anche in giro, perché è giusto prenderle in giro, che segnala magari quello che fa davvero i salami con le cinque oche che ha. E per quello che riguarda poi la cucina, ecco, io ci tengo molto a questo fatto. Tutte le ricette che ci sono lì dentro, come tutte le ricette che ci sono in altri miei libri, vabbè, sono selezionate in maniera assolutamente arbitraria, nel senso che viaggiando in un territorio le scegli in base ai ricordi che hai, a quello che hai assaggiato, a quello che ti ha raccontato qualcuno, alla signora che hai incontrato e ti ha raccontato questo, ai libri scritti dagli autori locali, cioè sono tutta una serie di cose attraverso le quali io ho scelto le ricette che stanno all'interno di quel libro, però tutte le ricette che ci sono lì sono raccontate esattamente come io le ho cucinate, sono tutte provate da me, cioè fatte fisicamente nella cucina di casa mia, quindi non nella cucina di un ristorante, in una cucina di casa, quindi ripetibili con tutti i problemi, perché quando incontro i problemi poi lo racconto tranquillamente, con tutti i problemi che si possono avere a fare una ricetta nella cucina di casa. Ecco, però a questo ci tengo molto, soprattutto in un mondo che come dire, propina ricette con il coppia e incolla. Ecco. Cioè tutto quello che c'è lì dentro io l'ho cucinato, l'ho mangiato, mi è piaciuto. Ecco, questo è parte. L'hai scartato qualcuno? Ho scartato le ricette impossibili a un certo punto, okay. Cioè le ricette impossibili, tipo il famosissimo, adesso rimanere nel pavese, no? Il risotto, no, ragù, mi piace la sopana. Il risotto alla certosina, che è una grande cacchiata, con dove vai a trovarle oggi tutte le cose, gli gambe di fiume, dove li vai a prendere? Non li trovi, non esistono, li vai di... Sì, ci sono in Valdellina, ma non li puoi pescare, ci sono un sacco di posti dove ci sono, ma non si possono prendere. Allora cosa fai? O vai a prendere quelli che vengono dalla Turchia, o prendi i gabbevoli da Louisiana, ma cioè che senso ha, no? Non ha nessun senso. Ma è anche un discorso questo che facevamo noi, che ogni tanto deliriamo qui, no? Di cucinare la peperonata al mese di gennaio, cioè ha lo stesso senso, cioè... è scandito dal calendario, no? Della vita, dei ritmi, delle robe. Certo, ma sì, ma esistono appunto salame d'oca, le rane, che sono quest'altra cosa, dove sono le rane? Questo è un servizio sul Skype, ma hanno tirato due, non dico che cosa, sul salame ecumenico, cioè che l'importanza la cagata, cioè, diamo un prodotto buono, accettabile, che non sia di nicchia, perché salame ecumenico è il salame che possono mangiare i musulmani, gli ebrei e gli altri, che fanno tutta a base di oca, quindi però tagliato col coltello, cioè sì, col taglio dell'animale particolare, no, ma sapete, il problema vero è questo, che cioè, oggi c'è questo gioco un po' alla Disneyland, no? della tradizione, di tirare la gente in giro, no? come in un grande parco giochi, come se la campagna fosse un grande parco dove andare a giocare, quindi è tutto finto, ma viene un po' venduto come se fosse vero. E c'è questa grande disgrazia, che è l'idea della tradizione. Allora, io non sono tradizionalista, io sono uno che sposa l'idea di Marco Aime, che è un antropologo, che queste cose ha studiato tanto, e lui dice, guarda, la tradizione non è altro che la storia dei padri riscritta dai figli a proprio uso e consumo, insomma, non, cioè noi molte volte raccontiamo un sacco di baggianate, ce le raccontiamo, e ce le raccontiamo tra noi, appunto, come le rane, insomma, le rane, se va bene bene bene bene bene, vengono dall'Albania, se no vengono dalla Cina, e chi se ne frega di rimettere in scena, cioè, o decidiamo, però lo diciamo, dice, stasera spettacolo di com'era una volta, no? E allora dice, lo spettacolo è questo, ci si mette il costume, si prende la ranocchia che viene dall'altra parte del mondo e ci si racconta come si viveva 100-150 anni fa. Ma in realtà, siccome il problema oggi è capire se questo territorio deve diventare una mezza discarica della grande città o ha senso che abbia un valore come con il proprio paesaggio, con la propria natura, con la propria vocazione, che è una vocazione agricola, allora onestamente se questa è la posta in gioco, a me interessa poco, insomma, che una sera si metta in scena la rappresentazione di come eravamo 150 anni fa, questo è un po' il... Per cui questo libro va decisamente, ecco, se va contro qualcosa va contro tutto questo, insomma, va contro a tutte le cose che si raccontano così perché la tradizione va ricostruita, perché così si portano i turisti sono una grandissima malattia, sono una cosa molto diversa dai curiosi e dai viaggiatori, sono una cosa in grado di distruggere la rete, qualsiasi patrimonio culturale e culturale. Io vivo oggi in una città turisticissima che è Rimini, è una città che non ha punti di riferimento, perché è nata 2000 anni fa, ma nessun turista lo sa, e vive semplicemente per fare questa grande rappresentazione di com'è bello stare una settimana, anzi forse 3-4 giorni al mare sulla spiaggia, no? Quando un amico carissimo che fa il portiere di notte dice, guarda, Rimini è sicuramente il luogo, cioè io vedo in tanti anni nel mio albergo che è il luogo dove si rompono, deflagrano tutte le coppie e qui, cioè queste vengono al mare che si amano e se ne vanno ognuno nel conto proprio, no? Ma è anche giusto, perché questo è il gioco del mondo, però non credo che i territori agricoli abbiano bisogno di turismo, di masse di persone che vengono a scoprire come cresce il riso o come si munge una mucca, no? o dove crescono le mele, no? O a mangiare appunto la rappresentazione di come erano questi luoghi 150 anni fa, magari con la gente vestita da bambina, no? Queste cose, ecco, non credo che il futuro sia questo. Credo, ma questo è che il futuro possa essere invece la terra, perché la terra è qualcosa dove tu poggi i piedi, dove ci sei, è qualcosa di concreto, è qualcosa di reale, non è qualcosa di aleatorio, la terra c'è.